buongiorno a tutte e tutte gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Buongiorno a te. Allora, senti, ci sono state, appunto, abbiamo un po' raccontato brevissimo quello che è apparso, insomma, sulla rete su quanto accaduto a Torino. Ci puoi dare la tua testimonianza? Assolutamente. Beh, stamattina molte persone erano in piazza non tanto per festeggiare, ma da una parte, insomma, per una giornata di lotta, ma anche di contestazione. Evidentemente il dissenso non può essere mai espresso, quindi ancora prima che il corteo si muovesse, visto che i Confaloni, il sindaco in testa, sono i primi a partire, è partita una contestazione che è stata subito duramente repressa e con situazioni veramente, insomma, al solito un po' cilene, compagni seguiti per le vie laterali al corteo, risultato 4 fermi piuttosto duri, gente malvagata, ma soprattutto la negazione di ogni spazio, ancora una volta questa piazza, che non fosse quello, appunto, del festeggiamento silente in un momento sociale, politico, in cui moltissime persone non trovano veramente le ragioni per festeggiare. La contestazione nei confronti di Fassino e più genericamente nei confronti del suo partito, che qua rappresenta in qualità di primo cittadino, rispetto alle scelte che il comune sta portando avanti per quanto riguarda la scuola, le proteste degli insegnanti precari che abbiamo visto nelle ultime settimane, la posizione del sindaco Fassino che dice che l'unica soluzione è far assumere questi precari dalle cooperative che però non ricevono i soldi dal comune, quindi una soluzione che non è una soluzione per una scuola che deve rimanere pubblica e non può passare attraverso queste forme subdole di privatizzazione. La contestazione partiva sostanzialmente un po' da quello, dalle situazioni sempre più grave qua a Torino, legato proprio al mondo del precariato e della cooperazione sociale, però, insomma, si è visto dato, quindi corteo poi accompagnato con in mezzo al corteo la polizia, che anche a sua volta contestata, insomma, cosa abbastanza rara vedere la polizia dentro il corteo del primo maggio, perlomeno qua a Torino, anche l'ANPI schierata con la polizia dal loro punto di vista nel tentativo di isolare i violenti, i soliti discorsi, quindi abbiamo visto l'ANPI sfilare scortata dalla polizia, cose veramente mai viste. Senti una cosa, scusami, ha fatto il suo corteo a testa bassa, contestato non solo dai compagni dei centri sociali, ma davvero da tantissime persone che, come sempre, il primo maggio affollano le strade di Torino e che, insomma, non avevano posizioni poi molto diverse. Senti una cosa, si parla, appunto, sulla rete di 5 fermi, se non sbaglio. Guarda, io te ne confermo assolutamente 4. Okay. Il quinto l'abbiamo sentito, ma non mi è arrivato il nominativo, quindi fino a questo punto non posso confermarlo. Però sì, 4 fermati, di tutti i quali, insomma, presi, appunto, al di fuori di situazioni di contestazione, inseguiti a persona proprio, menati non poco direttamente nella piazza e poi portati via. Ho capito. Va benissimo, ti ringraziamo per questa testimonianza. Magari ci sentiamo, appunto, nelle prossime ore. So che il corteo adesso si trova, se non sbaglio, a Piazza San Carlo, quindi praticamente sì, dove è il palco, diciamo, antagonista sta entrando in questo momento in una Piazza San Carlo dove ovviamente sia Fassino che il sindacato hanno già finito i loro comizi, insomma, da anni ormai cercano di farli in fretta e in fretta anche per evitare le contestazioni sotto il palco. Almeno hanno timbrato il cartellino. Va bene, ti ringraziamo per questa testimonianza. Magari ci risentiamo tra qualche ora per vedere come continua, insomma, la situazione lì a Torino. Va bene, grazie ancora. D'accordo, buona giornata. Ciao a te, buon primo maggio. Ciao. Ciao.